Ti metti in punta di piedi per sembrare adulto. Hai mai pensato di indossare i tacchi o che non ti insulto? Dimmi invece cosa sognavi da grande, di fare l'attrice, la velina oppure il cantante. Ho detto che ci sei riuscito eppure alla grande. Chissà quante volte ti sei calato le mutande per il tuo album, esattamente come Lost. Inizia alla grande ed alla fine si rivela un flow. Come la mia convinzione che ogni uomo ha sette donne, ma sentire rapper e trapper ce li hanno tutte loro. Quindi a noi rimane di indossare le gonne per sti guara qua qua. Ma voi vi si incula solo un uomo o non ci sarebbe nessuna spiegazione al perché passate in radio con la fama del migliore, senza fare eccezione, nessuna consacrazione, ma tutti sullo stesso carro del vincitore. Sono tolto un sassolino dalla scarpa che pesava 100 kg, 100 kg, e non capivo quel fastidio che mi dava. Questo è il passo degli ostili. Mi sono tolto un sassolino dalla scarpa che pesava 100 kg, 100 kg, e non capivo quel fastidio che mi dava. Questo è il passo degli ostili, degli ostili. Voglio lo parma giusto, nu sassolina d'anda scarpa. Fangula sti personaggi senza artenne parte. Mi sa parlare e mi sa cantare. Tutto sti miss qua, qui ste mi spirla. Avrei potuto far scherzare per sualizzazione anche nei video da figa e modella. Facendo pagliaccia a mezza sta trazione, parlando di cazzate che fanno a pizzi minorenne. Ma io non credo in tentazione a fa canzone con la sti cazzone. Zero like, io sono l'eccezione. Faccio strike e non voglio fa lezione. Non voglio fa concerto, cammina muro muro. A tinte lampe genie, un rischio qualche muro. Perché pure se non può piace, faccio sta merda soprattutto se un mondo tace. Mi sono tolto un sassolino dalla scarpa che pesava 100 kg, 100 kg, e non capivo quel fastidio che mi dava. Questo è il passo degli ostili. Mi sono tolto un sassolino dalla scarpa che pesava 100 kg, 100 kg, e non capivo quel fastidio che mi dava. Questo è il passo degli ostili, degli ostili.